della vita. Il passato da ignaro, ma il varco era stretto su ogni riga. Cose che vivono ora, nel mio petto è nato un altro cuore, più fresco, sorridente, più scente. Quando tu ragazza, dagli occhi stradunati, dall'amore, aspettami. Adesso una distesa di luce si apre agli occhi, alfiere danzo con lo scaccomatto. Come un sorriso raccoglie tutto il cuore, tacerebbe anche la morte dinanzi alle cose che vivono ora. Nel mio petto è nato un altro cuore, più fresco, sorridente, sorridente.